America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Il villaggio di cartone di Ermanno Olmi, uno dei film che a New York in questo momento sta partecipando al Festival del Cinema Italiano Contemporaneo al Lincoln Center. Questa manifestazione è cominciata qualche giorno fa, che andrà avanti fino al 14 giugno e che consente agli americani e non di farsi una scorpacciata di film italiani, film usciti nella stagione recente, con magari una piccola retrospettiva di qualche film classico. Con me ai microfoni di America 24, una conoscenza per i miei ascoltatori e per il pubblico italiano, perché uno dei più autorevoli critici cinematografici italiani, Antonio Monda. Buongiorno Antonio. Buongiorno Mario e grazie ancora una volta. Allora, Antonio insegna a New York University, grande organizzatore di festival, di eventi e una delle menti dietro questa iniziativa Lincoln Center. Allora, raccontaci intanto com'è nata questa iniziativa, Antonio. Allora vorrei dire innanzitutto grazie, siamo al 12° anno e abbiamo portato qui negli Stati Uniti circa 150 film, 30 dei quali sono stati distribuiti o su DVD o addirittura nelle sale, e credo che già questo sia un eccellente risultato. La media è 1 su 5. Sono film che altrimenti non avrebbero visto la luce in questo paese. Ecco, ma raccontaci cosa succede a Lincoln Center, cioè popolata da registi, attori italiani. Facci sognare, insomma, raccontaci un pochettino, cosa è successo. Una delegazione di una dozzina di talents, come dicono qua, cioè registi, attori, produttori, sceneggiatori. C'è un gala iniziale dove invitiamo anche dei personaggi del cinema americano. Abbiamo avuto in questi anni da Martin Scorsese, per 2 anni è stato il nostro padrino, Jonathan Demme, John Turturro, Isabella Rossellini, Arthur Penn, che purtroppo ci ha lasciato pochi mesi fa. Insomma, dei grandi del cinema americano che vengono a dare il benvenuto, a benedire, se mi passi il termine, il nostro cinema. Uno dei motivi che ci rende più orgogliosi è che le proiezioni serali sono tutte esaurite. Cioè tu vorresti farci compiere un furto? Noi rubiamo ai ricchi per dare ai poveri. A Robin Hood, ma vaffanculo, va. Posti in piedi in paradiso, avete ascoltato un piccolo estratto della colonna sonora del film di Carlo Verdone. Ecco, vorrei aprire una piccola nota critica, approfittando del fatto che tu sei con noi ai microfoni. Diciamo, il cinema italiano non riesce a sfondare come alcuni di noi pensano potrebbe. Mi viene in mente un film, L'Industriale, per esempio, di Montalto, che poteva essere un gran film se pensiamo al realismo italiano, alla commedia all'italiana, insomma tutto un filone che ha fatto storia e cultura nel mondo. Secondo me quella, per esempio, è stata un'occasione perduta, perché emergono poi dei cliché. Ecco, tu condividi che il rischio che abbiamo nel nostro cinema è duplice: da un lato una certa insularità, cioè film fatti ad uso e consumo per un pubblico interno, e all'interno di questo pubblico nostrano un particolarissimo pubblico appartenente a una certa tribù, un certo clan, un certo mondo politico. Il secondo rischio è quello di un cinema purtroppo pauperistico, come dici tu, troppo intimista. Qualunque film che tratta di questioni o politiche interne o sociali che parlano solo all'Italia, sono condannati a non avere un pubblico esterno. Qual è la differenza, per esempio, con un film bello come Gomorra o bello come Il Divo, che pure parla di politica interna, parla di Andreotti, mi riferisco ovviamente a Garrone e a Paolo Sorrentino. Non solo la differenza nel talento notevole dei due registi, ma del fatto che ognuno dei due parla attraverso il linguaggio del cinema, cioè non è soddisfatto dalla storia o dal messaggio o dal contenuto, ma danno una grande attenzione anche alla forma, e attraverso la forma fanno passare anche il contenuto. Ecco, passiamo un attimo a un confronto col cinema americano. Poco tempo fa ho visto Aaron Sorkin, che è uno grandissimo. Uno dei grandi sceneggiatori, autori americani, che sta uscendo tra l'altro con un paio di cose interessanti, perché fra poco ci sarà questo sceneggiato televisivo che si chiama Newsroom, che andrà su HBO, che mi sembra molto interessante, e soprattutto, a parte le varie altre cose che sta facendo, mi raccontava di quanto si fosse concentrato sul nuovo progetto, perché sono stati acquistati i diritti per la biografia di Steve Jobs e lui è stato ingaggiato per tradurre questa biografia in uno sceneggiato cinematografico, insomma, per scrivere la sceneggiatura. Guarda, nessuno meglio di Sorkin può trarre da un materiale in apparenza freddo qualcosa di molto bello. Parliamo di un grandissimo talento di sceneggiatore. Ecco, e infatti lui mi ha detto questo, dice, ma dunque io non farò la biografia, perché come dici tu è fredda, io voglio trovare un angolo, una storia, un qualche cosa che rappresenti quello che Steve Jobs direbbe di se stesso davanti a Dio quando arriva alle porte del regno dei cieli, giustificando anche quegli aspetti del suo carattere che magari non erano così importanti. Quindi ha già detto che vuole trasformare Steve Jobs comunque sia in un eroe positivo. Secondo te è giusto, uno, due, questo tipo di dialettica avviene anche nel nostro cinema? Allora, il primo punto, da vedere cosa intende lui per eroe positivo, perché la bellezza dei film che ha scritto Aaron Sorkin, pensa a Charlie Wilson's War, ti ricordi il film sul personaggio politico americano molto ambiguo con Tom Hanks e Julia Roberts, e che non sono mai sfaccettati, non sono bianco o nero, hanno moltissima area grigia come abbiamo tutti. Rispetto all'Italia, ecco, gli esempi che ti ho fatto prima, in particolare il Divo, sono una bella eccezione, perché al di là di quello che si possa pensare, dire sulla reale figura di Giulio Andreotti, il personaggio che viene raccontato sullo schermo è completamente grigio, cioè non è certamente un eroe, ma non è neanche un criminale o una persona disprezzabile, è un personaggio rispetto al quale il regista si pone certamente affascinato e intrigato e vede molte sfaccettature. Questa è la linea che secondo me si deve avere per salvare un nostro cinema, la cui industria purtroppo è ogni anno più agonizzante. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, Justin Bieber, tutto esaurito. I biglietti per il suo tour del Nord America sono andati sold out, pensate, in un'ora dal momento in cui sono stati messi in vendita sui computer. La serie di concerti sarà inaugurata a Glendale in Arizona il 29 settembre. Justin Bieber, Mistletoe. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. With you, shawty, with you. With you, shawty, with you. With you, under the mistletoe. Everyone's gathering around the fire, chestnuts roasting like a hot July. I should be chilling with my folks, I know, but I'ma be under the mistletoe. Word on the street, Santa's coming tonight. Reindeer's flying through the sky so high. I should be making a list, I know, but I'ma be under the mistletoe. Shawty with you, shawty with you. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!